per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici, siamo qui con voi per una nuova puntata del Pandaiogico e cominciamo dando un piccolo spunto, suggerimento di ricerca, ricordando che oggi 21 giugno è il solstizio d'estate e vogliamo segnalarvi che questa data nell'ambito alchemico magico viene definita giornata della porta dell'inferno, in quanto da oggi la giornata comincia come ore di sole ad accorciarsi e quindi ci sarà meno luce e più ombra. Questo viene un po' a simboleggiare anche una discesa verso l'oscurità, che può essere una discesa verso un ambito di ricerca spirituale e di ricerca in se stessi. Quindi vi fornivo questa notizia giusto per darvi uno spunto di, appunto, come dicevo prima, di possibile curiosità e ricerca. Detto questo, cominciamo dicendo che l'argomento di questa puntata saranno i Klesha. Klesha, che spiegheremo fra qualche minuto che significa, ricordiamo che nella prima puntata definimmo lo yoga come un cammino lungo la ricerca e la conoscenza di se stessi, dell'esistenza, del mondo che ci circonda. Durante questo cammino è possibile incontrare un'infinità di ostacoli, di problemi, di impedimenti. Ce ne sono alcuni in particolare definiti nei Yoga Sutra di Patanjali, appunto Klesha. Klesha, il termine, indica, viene tradotto ordinariamente con il termine italiano afflizioni. La principale afflizione, quella forse più dura diciamo, da riuscire a combattere, è l'ego. L'ego è quella parte di se stessi che noi riteniamo essere la nostra vera identità. In realtà non è così. L'ego, nel quale spesso cadiamo e per colpa del quale compiamo azioni delle quali ci pentiamo, azioni di violenza, azioni insensate, azioni, diciamo, non coerenti con la nostra vita e con l'universo, è quell'ego che viene a strutturarsi fin da quando siamo bambini, da dovuto strutturarsi seguendo i condizionamenti che ci vengono imposti nell'ambito familiare, nell'ambito della società nella quale, volente o nolente, viviamo e siamo immersi e con la quale dobbiamo, dico purtroppo perché non è, diciamo, secondo me la società ideale, diciamo, quindi con la quale purtroppo dobbiamo interagire. Tutto ciò porta appunto a strutturare quest'ego, questo presunto io che noi riteniamo sia la nostra vera personalità, ed è un ego che ci porta a instaurare rapporti con ciò che ci circonda, sia in termini di persone, di animali, di piante, di qualunque cosa, sono strutturalmente a quel punto improntate alla violenza, al potere e spesso alla volontà al desiderio di sopraffazione per avere maggiore autostima di noi stessi. L'ego, appunto, lo yoga cerca non tanto di eliminarlo, di combatterlo, perché comunque è una parte di noi che è necessaria e fondamentale alla nostra esistenza. Dobbiamo però, appunto, diventare consapevoli di cosa siamo noi veramente come io, qual è veramente la nostra identità e perché compiamo determinate azioni. Diciamo, tutto questo processo può essere cominciato e proseguito con una maggiore consapevolezza. Innanzitutto, per chi pratica anche yoga, con la pratica degli asana si può cominciare ad avere consapevolezza del proprio corpo, dei movimenti, del funzionamento di tutto ciò che appunto definiamo nella materialità del nostro corpo, quindi capire quando noi diciamo noi, sempre nel caso di noi parliamo del nostro piede, della nostra mano e ci identifichiamo con quella parte del nostro corpo. In realtà non siamo veramente noi né a comandare il nostro corpo, né quella parte del corpo è il nostro vero io. Quindi la pratica costante degli asana ci permette di cominciare a prendere una distanza dal presunto noi stessi e di riuscire ad essere testimoni di ciò che accade dentro di noi e ciò che accade intorno a noi. Un esempio pratico molto, diciamo, abbastanza chiaro può essere quello della respirazione. Non siamo in realtà noi a respirare, semplicemente noi siamo oggetto passivo del movimento dell'aria. Quindi una respirazione compiuta con la consapevolezza massima ci fa capire che il nostro essere, oggetti attivi anche nel respirare crolla miseramente, in quanto l'aria entra ed esce dal nostro corpo semplicemente per una questione di pressione, di differente pressione all'interno del nostro corpo e all'esterno del nostro corpo. Tutto ciò che possiamo fare è essere consapevoli di questo processo, essere consapevoli di ciò che l'aria fa entrando ed uscendo dal nostro corpo e riuscire ad agevolare questo movimento dell'aria e capire che ciò è un modo per entrare in relazione col mondo circostante, con l'universo, con tutto ciò nel quale noi siamo immersi. Scusate un attimo, un colpo di tosse. Allora, diciamo, questo porta a destrutturare e a cominciare a rompere quelle idee che si sono calcificate nel nostro immaginario, nella nostra psicologia presuntamente che corrisponderebbe alla nostra totale vita, nella quale noi riteniamo di essere, noi sia come individui che come genere umano, di essere al centro del mondo, di essere e poter essere a nostro piacimento dominatori o meno del mondo, ci porta ad essere violenti, ad essere totalmente sordi e ciechi rispetto alle esigenze delle altre specie che abitano questo mondo. Questa consapevolezza di non essere in realtà padroni di nulla, a cominciare dal nostro corpo, dalle nostre azioni, ci può dare il là, ci può dare la spinta per riuscire ad abitare questo universo in maniera davvero consapevole, in maniera da poter diciamo eliminare tutti i contrasti che ci fanno stare male noi stessi per primi all'interno del nostro animo, della nostra mente, e riuscire a capire che il tutto è l'uno e noi siamo parte di questo uno, e dobbiamo semplicemente riuscire ad inserirci nel flusso di questo uno che ci accoglie e ci dà la possibilità di vivere, se noi lo vogliamo, se noi ne siamo consapevoli, nella maniera più rilassata e più piacevole possibile. Ogni volta che compiamo un'azione, che sia un'azione di un movimento fisico, che sia una parola detta, che sia qualunque altra scelta compiamo nella nostra vita, chiediamoci sempre perché l'abbiamo fatto. Cosa c'è realmente alla base delle nostre decisioni? Se siamo realmente noi a scegliere o scegliamo e decidiamo perché qualcosa in maniera più o meno consapevole ce lo impone e ci spinge a farlo. È per avere un riconoscimento da qualcun altro, per avere un riconoscimento dalla società, dal genitore, dal datore di lavoro, dal compagno, dalla compagna, o è perché realmente noi vogliamo essere quello che realmente siamo e che dobbiamo scoprire di essere? Nello yoga tutto ciò è fondamentale capire che le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sentimenti non siamo il reale noi, ma siamo solo un'immagine che vediamo come un film trasmessa, proiettata su uno schermo. Noi dobbiamo abbattere quello che spesso viene detto il velo dell'illusione e vedere al di là dello schermo la nostra vera identità. In un'infinità di film, di racconti, di libri si scopre che quando si va alla ricerca della verità, del fine ultimo della vita, spesso e volentieri quello che si vede è che il protagonista di questi film, di questi romanzi o altro, in realtà incontra di nuovo se stesso. Lo vede da lontano, alle volte lo vede di spalle, lo vede di faccia, lo vede con un'espressione diversa dalla propria, ma in realtà incontra sempre se stesso, lo incontra trasformato, lo incontra in lotta, lo incontra pacificato quando il cammino è stato compiuto, o quantomeno se anche non compiuto, perché compiere questo cammino per intero non è per niente facile, quantomeno quando lo si intraprende. Possiamo riuscire a vedere che in un certo senso, come dicono alcuni, l'universo comincia a congiurare al nostro favore, tutti gli ingranaggi cominciano a muoversi in una maniera coerente e coordinata, e la nostra vita può assumere aspetti che fino al giorno prima non pensavamo potesse avere. Comincia ad essere realmente tutto più semplice, tutto più fluido, tutto più bello. Cominciamo a perdere la volontà di giudicare, la volontà di definire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bello, ciò che è brutto. Noi dobbiamo riuscire invece ad essere testimoni e agenti di ciò che accade in una maniera, diciamo, distaccata dal fine ultimo. Non dobbiamo compiere azioni, non dobbiamo fare... Non dobbiamo pensare, non dobbiamo cercare l'espediente per arrivare a un risultato, ma dobbiamo osservare, comprendere, capire e lasciar fluire. Questo come succede con la respirazione, come succede con l'aria che appunto dobbiamo lasciare liberamente entrare o uscire dal nostro corpo, così può e succede con i pensieri, con la nostra mente, con tutto noi stessi. vi suggerisco adesso di ascoltare il brano che vi propongo proprio in questa modalità, in quest'ottica. Chiudete gli occhi, rilassatevi, lasciatevi attraversare dalle vibrazioni e dai suoni che ascolterete, lasciate che il respiro fluisca liberamente. Ascoltate e ci vediamo fra qualche minuto. bentrovati e bentrovate dopo l'ascolto di questo contributo vibrazionale. Spero vi sia servito a sperimentare qualcosina del vostro corpo e ad aumentare un po' la vostra consapevolezza. E adesso mi piace sottolineare come nell'ambito della ricerca yogica ci si può aprire a tanti altri campi e si può diventare consapevoli delle stesse strutture mentali e comportamentali anche di altri ambiti. E al riguardo, ieri proprio è successo che ho seguito un corso di agricoltura, la cosiddetta agricoltura naturale, che diciamo, è una tecnica che è stata fondata dall'agricoltore giapponese Fukuoka ed è da un po' di anni che viene eseguita in Europa, prima in Grecia e adesso anche in Italia. E l'agricoltore in particolare ieri ci raccontava come questa tipologia di agricoltura è un'agricoltura cosiddetta del non fare. E quando lui parlava mi ritrovavo proprio a sentire gli stessi discorsi che ho fatto poco fa relativi allo yoga, relativi all'ego, perché in questa agricoltura del non fare, in questa agricoltura naturale, bisogna fare proprio quello che suggerivo prima, bisogna rinunciare a se stessi, non bisogna avere la pretesa di essere noi a cogliere i frutti, ma i frutti vanno lasciati lì sull'albero e si lasciano cogliere quando è giusto il tempo che ciò accada. Gli alberi non vanno potati, non vanno innaffiati, non vanno mutilati, non vanno tagliate le radici, non va fatto nulla. L'albero va solo lasciato nel suo ecosistema a suo modo, va lasciato a vivere la sua vita che, quando appunto diventa una vita integrata con la nostra, o meglio noi ci integriamo con la sua, diventa una vita poi di scambio. Quindi a quel punto possiamo dire che in un certo senso l'albero ci dona i suoi frutti, nel senso che viviamo in un ecosistema unico nel quale noi facilitiamo in un certo modo, in una determinata fattoria, la vita naturale dell'albero, e l'albero ci ricambia sempre tra virgolette, producendo i frutti dei quali possiamo nutrirci. Questa tecnica si è riscontrata essere molto più produttiva, anche se il termine produttivo non ci piace e non è un termine che deve comandare le nostre azioni, però si è comunque riscontrato che un albero, in un certo senso un albero felice, è un albero che fa frutti più saporiti, più belli e anche più abbondanti. Un albero che non viene potato cresce secondo quella che è la sua informazione genetica, prende la forma e la struttura che è coerente con la propria esistenza e non ha bisogno appunto di essere innaffiata, perché l'acqua la raccoglie dal terreno. Le sue radici, se non vengono tagliate, se non vengono mutilati i rami, dato che l'albero è, si dice che è come sopra così è sotto, quindi ciò che vediamo sopra, com'è la chioma, come sono i rami, così sono le radici. Nel momento in cui noi tagliamo i rami, tagliamo in realtà anche le radici, che col tempo si seccano e vengono a mancare. Quindi dicevo, lasciando tutto ciò allo stato naturale, riusciamo ad entrare in una comunità, in un certo senso, una comunità fatta da alberi, da esseri umani e da tutto ciò che appunto abita il mondo. E diventa una comunità che perde poi automaticamente questa prepotenza dell'ego, perché a quel punto non c'è più bisogno di voler per forza affermare se stessi a discapito di altri o di altre o di altre specie viventi, perché siamo tutti in armonia e siamo tutti sereni di gioire nel vivere fianco a fianco. Tutto ciò anche in questa circostanza veniva visto da altre persone presenti come un qualcosa di impossibile, perché c'era chi ribatteva all'agricoltore naturale dicendo: sì, ma come capisco quando devo cogliere, quando devo innaffiare, quando devo fare questo? E lui diceva semplicemente: non lo capisci, vai là, se c'è il frutto lo prendi, se non c'è vuol dire che non ci deve ancora essere, lo prendi un'altra volta. Diciamo, il ragionamento è molto semplice, ma è molto difficile riuscire a scardinare l'abitudine di vita nella quale siamo ormai da secoli. Detto questo, vi saluto